You've got to give a little. Indovina chi viene a cena. That's the glory of love. Oggi è stato uno strano giorno. Credo anzi di non esagerare affermando che è stato un giorno veramente straordinario. Mi è stato gentilmente spiegato da mia figlia che aveva intenzione di sposarsi. E che il suo promesso era un giovane uomo che non avevo mai visto e oltretutto negro. Beh, mi pare giusto riconoscere che ho reagito a questa notizia nello stesso modo in cui avrebbe reagito qualunque padre normale, a meno che la figlia non fosse negra anche lei. Chiunque potrebbe obiettare, non a vanvera, contro questo vostro matrimonio. Ma voi siete due esseri perfetti, che vi siete innamorati e che purtroppo avete una diversa pigmentazione. E adesso io credo che qualunque obiezione possa fare un bastardo contro la vostra intenzione di sposarvi. Solo una cosa ci sarebbe di peggio. E cioè che voi due, sapendo quello che fate, sapendo ciò che vi aspetta e sapendo quello che sentite, non vi sposaste. Beh, Tilly, che cavolo aspettiamo a mangiare? Buonasera da Valentina Furlaneto, benvenuti a questo appuntamento in cui parliamo di cucina e identità come ogni puntata, ma anche di cinema. Questa sera non solo grazie al consueto omaggio al grande film degli anni 60 da cui prendiamo spunto, Indovina chi viene a cena, ma anche per cui questa sera proprio parliamo di una pellicola, un film documentario molto interessante e che è passato al Festival del Cinema di Venezia. Mi riferisco a Io sto con la sposa di Khaled Soliman al-Nassiri, Antonio Augugliaro, che abbiamo in collegamento, con cui parleremo tra poco. Buonasera intanto, Antonio. Buonasera. E Gabriele Del Grande. Innanzitutto, Antonio Augugliaro, uno dei tre che hanno curato soggetto, sceneggiatura e regia di questo progetto cinematografico, ma non solo. È un banchetto, no? Un viaggio di un corteo nuziale, è un racconto di uno sposalizio un po' particolare. Sono cinque profughi palestinesi e siriani sbarcati a Lampedusa, cinque veri profughi palestinesi e siriani che vengono aiutati da degli amici, tra cui anche lei, ad andare verso la Svezia, che è il sogno di raggiungere appunto Stoccolma. Quindi 4 giorni, 3.000 chilometri da Milano a Stoccolma, registrati in presa diretta per questo film documentario. È così? Sì, esattamente così. Un giorno di ottobre, pochi giorni dopo il naufragio del 3 ottobre dell'anno scorso, 2013, ci trovavamo a parlare tra di noi e chiederci come poter aiutare questi siriani in fuga dalla guerra. E così, insomma, un po' per scherzo, un po' veramente, abbiamo deciso di partire tutti vestiti da abiti da sposa, perché in fondo chi fermerebbe mai una sposa in frontiera? In effetti, chi avrebbe il coraggio di fermare un felicissimo evento, no? Esatto. E quindi avete iniziato, avete girato e adesso lo racconteremo. Adesso brevemente sentiamo uno stralcio del trailer. العام اللي فات انا كنت بسوريا يعني كنت بالحرب يعني شفت الحرب شفت اللي صار بسوريا بيجيك علاقات لانه مندمر بجناس من خال الشيخ الاصدقاء ما في تخلي العالم بالشارع يعني قدر الامكان بس بالنهايه لما يصير وصل حدا لانه عندك 1000-2000 بني ادم واصلين صار شو بدك انا ضليت شي ساعه مسدتني بين الجثث مسدتوني بالسفينه وصاروا يحطوا العالم بميتي فوري يعني ما غرقت بالبحر يمكن اختنق بين الجثث Antonio Augugliaro, abbiamo sentito, tra l'altro è girato per l'80% se non sbaglio in arabo, no? E si dicono delle cose che noi adesso non abbiamo compreso, ma di solito sono in sovraimpressione nella pellicola, molto pesanti, anche perché durante questo viaggio divertente, spassoso, ci sono vari aneddoti ma anche i racconti di questi profughi. Eh sì, diciamo che è un film molto gioioso in cui c'è molta voglia di arrivare in un luogo che è il luogo dei sogni, un luogo dove la vita è possibile viaggiare, però sicuramente c'è anche un passato che ritorna puntualmente durante le tappe del viaggio e chiaramente viene raccontato con tutta la sua drammaticità, perché sono persone che fuggono da una guerra sanguinolenta e molto drammatica. Ci sono anche dei veri e propri banchetti, no? Noi di solito parliamo sempre di cucina e ricette per parlare di identità che appunto passa anche attraverso la cucina. Quali banchetti, a quali banchetti avete partecipato, Antonio? Questa storia del banchetto è diciamo, stata una bellissima sorpresa da parte nostra, perché è stato il modo in cui l'Europa ci ha aperto le porte di casa e ci ha ospitato, ci ha fatto facendoci mangiare i cibi tipici di Marsiglia, di Bochum, ma non solo, perché le persone che ci ospitavano erano diciamo di più culture diverse, per cui a Bochum, nel cuore della Germania, abbiamo mangiato cibo siriano, piuttosto che a Marsiglia abbiamo mangiato cucina egiziana, se non sbaglio. Per cui insomma è stato bellissimo come le porte dell'Europa ci sono state aperte per ospitarci. Poi banchetto finale, veramente di liberazione, quando siete arrivati in Svezia. Sì, c'è stato un banchetto finale a Stoccolma che è durato fino alle 5 del mattino, e alla fine del quale, presi dall'euforia di essere arrivati, abbiamo deciso di andare nella piazza principale di Stoccolma a festeggiare tutti insieme. È una scena molto bella e molto poetica che poi è finita anche nel film ed è stato veramente meraviglioso. C'è tra l'altro un rap sfrenato di un giovanissimo ragazzo, Manar, durante la festa, se non sbaglio, di Marsiglia, no? Che canta la sua terra, che canta la ribellione anche, a un destino che sembra segnato. Eh sì, Manar è uno di quei tantissimi ragazzi che vivono la guerra da ormai tanti anni e nelle sue, diciamo, lui cerca di sfogare tutta questa sensazione di repressione che gli provoca la sua situazione all'interno delle sue canzoni. È un ragazzino giovanissimo, 12 anni, però ha dei testi molto densi e degni delle grandi star, assolutamente. Sono, oltre a Manar, Abdallah, Mona, Ahmed, Alaa, i nomi dei cinque personaggi, profughi, ma persone poi reali, che voi avete aiutato, che sono sbarcati a Lampedusa e che avevano come obiettivo quello di andare in Svezia, no? Esatto. Sono persone che avete conosciuto per caso, come è avvenuto questo incontro? Ma diciamo, Abdal è stata la prima persona che abbiamo incontrato in stazione centrale. Lui era appena arrivato a Milano da Lampedusa e cercava un treno che lo portasse in Svezia. E, insomma, gli abbiamo detto: guarda, veramente non esistono treni che arrivano in Svezia, vieni con noi, beviamo un caffè, ci vediamo di aiutarti in qualche modo. E in quel modo ci ha raccontato la sua storia e poi da lì è nato tutto. Mentre Ahmed e Mona erano due vecchi amici di Khaled, che quasi per caso abbiamo saputo che erano arrivati a Lampedusa pochi giorni prima della partenza del nostro viaggio, e mentre Manar e Alaa, che è suo padre, li abbiamo incontrati in uno dei nostri giri nei centri d'accoglienza, perché in quei giorni cercavamo comunque di fare un po' di scouting per cercare i personaggi giusti per il documentario. E come le avete scelte? Perché proprio queste persone invece di altre? Ma loro, in realtà abbiamo scelto soltanto Manar e suo padre, perché Abdallah ci è venuto incontro con il destino e Mona e Ahmed erano gli amici di Khaled. E loro due non potevamo non scegliere, perché come andavamo nei centri di accoglienza, chiedevamo persone disposte a fare questa cosa, tutti ci indicavano loro due, non potevamo non sceglierli, perché hanno una potenza incredibile. Manara, quando l'abbiamo vista la prima volta, ci ha colpito tantissimo il suo viso e i suoi occhi, che proprio sprigionano una gioia e una potenza incredibile, una voglia di vivere incredibile. You've got to give a little. Indovina chi viene a cena. Siamo questa sera a parlare di cinema, identità e cucina con Antonio Agugliaro e tra poco anche con il suo collega che ha curato il soggetto, la sceneggiatura e la regia di Io sto con la sposa, questo film documentario con Khaled Soliman Al-Nassiri. Antonio Agugliaro, stavamo dicendo appunto della scelta di questi interpreti, ma viene difficile parlare di interpreti, no? Di queste persone che hanno collaborato al film. Come stanno ora questi cinque protagonisti? Dunque, i protagonisti stanno bene perché hanno ottenuto tutti quanti lo status di rifugiato politico. Tre di loro sono in Svezia, cioè Abdallah, Ahmed e Mona, mentre Manar e suo padre sono stati rimandati in Italia, perché è dove hanno ottenuto comunque lo status di rifugiato, perché loro prima di partire con noi avevano tentato la sorte affidandosi a un contrabbandiere, il quale, siccome organizzava degli autobus da 50 persone l'uno, quindi vuol dire 50.000 euro a viaggio, insomma era tenuto sott'occhio dalla polizia. La polizia li ha fermati esattamente nel momento in cui c'erano loro sopra, insomma un'operazione di polizia normale, hanno preso le impronte digitali a tutti e questa era la prova del passaggio in Italia, per cui una volta arrivati in Svezia sono stati rimandati in Italia. E per voi invece non ci sono state conseguenze dal punto di vista penale, perché voi avete favorito un reato, no? Rischiavate fino a 15 anni di carcere per favoreggiamento all'immigrazione clandestina, tuttora mi pare di capire che siete passibili di denuncia. Sì, questo diciamo, durante il viaggio avevamo il rischio di essere arrestati in flagranza di reato, mentre adesso diciamo il rischio più grande è quello di ricevere una denuncia, qualsiasi persona potrebbe denunciarci e il film sarebbe la prova del nostro reato. Però per il momento, insomma, incrociamo le dita, non è ancora successo niente, ecco. Finora non è accaduto e diciamoci la verità, sarebbe ulteriore pubblicità a questo film a questo punto. Beh, direi di sì, oltretutto i nostri avvocati non vedono l'ora di così. Noi ovviamente ne parliamo col sorriso sulle labbra, perché è andato tutto bene, perché è un film anche divertente, interessante, perché soprattutto è riuscito a non solo a essere presentato a Venezia, ma a essere distribuito in sala, no? E che questo mi pare di capire che sia un grandissimo successo per un film nato dal basso, come con un finanziamento popolare di cui poi parleremo. È anche la storia di persone, della dignità di alcune persone e dell'aiuto che ci si può dare fra popoli. Questo è un atto dalla vostra amicizia, immagino. Sì, io e Calabriere eravamo già amici prima del film e con Khaled siamo diventati amici grazie al film e grazie a Gabriele che ci ha presentato. E sì, in realtà questo film rappresenta un po' la risposta che ci siamo dati all'imperativo della nostra legge morale, perché è vero, esiste una legge degli stati che impone di chiedere asilo politico nel primo stato in cui si passa, però non si possono chiudere gli occhi davanti a delle persone che soffrono e debbono affrontare un viaggio della morte soltanto per arrivare in un altro luogo. Nel 2014, quando con un volo Ryanair con 50 euro si arriva dove si vuole, sostanzialmente. كثير صعب اتخيل انه مكان حلو مثل البحر ممكن بلحظه يغرق اولاد صغار. في اطفال ماتت بهذا البحر مشان توصل لمكان ثاني. الاولاد بالعاده بيروحوا بيلعبوا على البحر ما بيموتوا بالبحر. Questa che state ascoltando è una scena del film Io sto con la sposa, una scena nella quale la sposa appunto è seduta con questo fantastico abito a velo bianco su un molo, guardano il mare, guarda il mare insieme al finto sposo e ad alcuni finti invitati e riflettono su quello che il mare può significare, può portare via le vite umane, come è accaduto purtroppo molte volte nel canale di Sicilia. In realtà dovrebbe essere il posto dove i bambini vanno a giocare, non a morire. Eh sì, questa è stata una scena che abbiamo girato poco prima di attraversare l'ultima frontiera tra Copenaghen e Malmo, e così sedendoci sul molo sono venute una serie di idee, di pensieri attorno al mare, perché ci si chiedeva come un posto così bello, così magnifico possa inghiottire delle vite umane, addirittura delle vite dei bambini, come sta succedendo tutt'oggi a largo di Lampedusa. E questo mare sostanzialmente è il Mediterraneo, che è un mare che dovrebbe unire le due sponde, invece diventa improvvisamente un cimitero, un mare che divide. Insomma, è stata una... Poi c'è un'altra frase che pronuncia la sposa quando le chiedono: ma tu sei siriana, avevi il passaporto, potevi andartene, lì c'è la guerra, e invece sei rimasta, perché? Eh sì, questa è un'altra, diciamo, lei racconta un po' un'altra parte della questione guerra e migrazione, perché insieme a tante persone che se ne vorrebbero andare, ci sono anche tante persone che invece vogliono restare. Lei quello che dice è sostanzialmente i ribelli non combattono per delle case vuote, combattono comunque per qualcuno, per difendere una città, per difendere delle persone, la vita, per garantire a tutte quante una vita dignitosa alle persone. Insomma, e poi dice: andarsene è un atto singolo, mentre per me deve essere un atto collettivo quello che faccio. Sì, fa un discorso sull'umanità, è una cosa che richiama un po'. Ma è stato un discorso spontaneo o l'avevate scritto? Quello che mi sono chiesta guardando le scene è se c'era un copione o se ognuno reagiva secondo non il personaggio ma se stesso. No, assolutamente, non abbiamo scritto nessun copione, noi abbiamo scritto soltanto un canovaccio, perché in ogni luogo dove andassimo venisse fuori un po' di più la personalità di uno o di un altro personaggio, però i dialoghi che vengono fuori sono assolutamente spontanei. Antonio, vi aspettavate tutto questo successo? Ma assolutamente no, guarda, quando noi siamo partiti col crowdfunding abbiamo chiesto 75.000 euro, non pensavamo neanche di arrivare a 10.000 e invece ne abbiamo raggiunti 98.000, quindi quello è stato il primo segnale, però neanche quando siamo iscritti a Venezia pensavamo di essere presi a Venezia, invece abbiamo fatto un successone, l'applauso più lungo, abbiamo preso 3 premi, insomma, non so, è un sogno, è un sogno da tutti i punti di vista. Grazie ad Antonio Augugliaro. Io invece do la buonasera a Khaled Soliman Al Nassiri, che è con noi questa sera anche lui per parlare del film, di questo film Io sto con la sposa. È nato a Damasco da famiglia siriano-palestinese, rifugiato in Italia dal 2009, poeta, grafico, critico letterario. E ecco, come nasce questo film? Questo film parla, c'è la storia che un poeta palestinese con un suo amico, un giornalista italiano che abitano a Milano, mentre che vanno a provare di aiutare rifugiati che arrivano a Milano, siriani, palestinesi specialmente, cercano di aiutare 5 di quelli immigrati, perché sono diventati amici loro, per farli arrivare in Svezia, perché è il loro goal. Che patrimonio non è vero, però tutto vero, sì, il viaggio. Voi avete fatto impresa diretta la registrazione di 4 giorni e 30.000 chilometri da Milano a Stoccolma, no? Esattamente. Abbiamo dovuto di andare verso Marsiglia, verso sud di Milano, verso Marsiglia. Da Marsiglia abbiamo fermato un giorno là, dopo abbiamo andato verso Luxembourg, Germania, siamo fermati una notte in Germania, dopo Germania siamo in Danimarca, dalla Danimarca siamo passati in Svezia. Il primo confine in Italia l'avete attraversato proprio a piedi? A piedi, sì, abbiamo scelto una cosa per farlo un simbolo nel film, un passante. Il passo del morte lo chiamano, il passo del morte, perché questo usava... Il passo della morte. Della morte, perché lo usavano gli italiani proprio il tempo del fascismo, della guerra, il tempo che non possono andare in Francia, che hanno bisogno i partigiani, che quindi lutano, che fuggivano. Sì. Voi avete valicato la frontiera in un passaggio tradizionalmente usato anche durante la guerra per i fuggiaschi, per chi scappava dal fascismo, e l'avete superato a piedi. Quindi non è solo chiaramente un film, ma è soprattutto un atto di ribellione politica, no? Esattamente sì, prima che noi anche pensiamo per fare un film, noi veramente abbiamo pensato solo di fare, di aiutare i ragazzi. Dopo è venuta così, che abbiamo detto perché non facciamo un film, registriamo questa cosa, un messaggio a parlare a questi problemi di immigrati. Andata Khaled, quando avete deciso con questa idea pazza di fare questo progetto, questo documentario film, avete anche pensato chi ci può finanziare questa impresa, no? Noi abbiamo partito con i nostri soldi, quello ognuno di noi, io e Gabriele Della Grande e anche Antonio Augugliaro, che quando abbiamo scelto di fare questo film abbiamo tirato fuori tutti i soldi che abbiamo nella banca. Quindi abbiamo cominciato con 10.000 euro quasi, da noi tre, per fare il viaggio, per anche grazie all'aiuto di tanti, tutti gli altri che hanno lavorato per il film, il cameraman e gli altri, anche il sounder. No? Tutti hanno lavorato gratis. Se abbiamo detto a tutti, se noi nel futuro possiamo trovare soldi, vendere il film, non lo so, paghiamo tutti e no. Abbiamo detto perché non proviamo di fare il crowdfunding, sappiamo che funziona in tanti altri paesi, come detto magari anche funzionerà in Italia, che abbiamo anche l'idea di questo film magari che ci impresta la gente. E infatti funziona molto bene, abbiamo fatto una forma di crowdfunding su un sito web internet che si chiama Indiegogo. Abbiamo messo la storia. Abbiamo chiesto che noi abbiamo il budget di 75.000 euro, che saranno magari il multe di 5 classini, 15.000. Abbiamo chiesto questi soldi. E avete raccolto molto di più, no? Molto. In due mesi abbiamo chiuso il crowdfunding con 100.000 euro circa. Erano 98.500 euro. Avete coinvolto oltre 2.500 persone che hanno deciso di donarvi qualcosa, persone che provengono da 38 diversi paesi, insomma avete raccolto i soldi sufficienti, anche superiori al budget che avevate pensato, no? Sì, sì, se noi sappiamo prima che andiamo così bene, magari lo lasciamo il crowdfunding per tre mesi. Però finita con due mesi. Vabbè. Benissimo. Comunque, dopo, anche perché tutti quelli gente che hanno aiutato, ci hanno aiutato per il crowdfunding, per mettere un po' di soldi in film, era per noi anche un simbolo di questo film, che abbiamo detto sempre che questa è la nuova Europa, perché la maggior parte di quelli gente erano italiani, quindi quelli gente che è con noi e adesso anche ci aiutano. Per, anche se nel futuro uno che va a fare la denuncia la polizia, che noi non siamo arrivati da soli alla fine. Una delle prerogative della cucina siriana è sicuramente il fatto di trovarsi di fronte a un popolo estremamente conviviale, cosa che si riflette nel fatto che i pasti si trasformano in qualcosa di più rispetto alla sola necessità di nutrirsi. La gastronomia siriana è influenzata da diversi popoli, ma in particolare dalla Francia.